Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend e benvenuto al dottor Ranieri Guerra, vice direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Buongiorno e benvenuto dottor Ranieri Guerra, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. Partiamo dai dati. La curva dei contagi sale in modo preoccupante, viene interpretata in modo differente. Quali sono i dati che dobbiamo guardare che ci danno un po' il quadro della situazione? Dobbiamo guardare tutti i dati, perché poi alla fine sono i numeri che contano, però li dobbiamo anche interpretare come fotografando oggi una situazione che si è maturata 15 giorni fa. Quindi quello che conta è il trend, ed è il trend quello che preoccupa, perché in questo momento la curva di risalita dei casi sta aggiungendosi a situazioni come l'indice di replicazione in alcune zone, Milano per dire, ma anche le altre zone metropolitane italiane come Roma, Napoli, Genova, dove questo andamento ovviamente preoccupa. Però devo dire che siamo ancora, per esempio, sul dato cumulativo degli ultimi 14 giorni, direi a un terzo, per esempio, di quello che è la Gran Bretagna, a un quarto di quello che è la Francia. Per cui siamo in una situazione all'interno della grande comunità europea in cui non siamo ancora ai livelli in cui eravamo a marzo-aprile, dove i nostri erano andati peggiori del continente. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna farlo ora, perché entro i prossimi 10-15 giorni vedremo molto probabilmente un ulteriore aumento della curva e poi vedremo anche gli effetti di queste misure di contenimento. Ecco, ma quello che conta. Ma queste misure di contenimento sono sufficienti, adeguate a fermare questo aumento di casi, a rallentare la curva? Guardi, io credo che siano tre i livelli dove bisogna andare a interpretare le misure di contenimento. C'è un livello nazionale che è un po' lo zoccolo duro, cioè quello che tutti devono adeguarsi a fare. C'è poi un livello regionale che definisce una situazione locale che quindi deve essere interpretata e gestita localmente, e poi c'è quello che dimentichiamo molto spesso, il livello municipale, il livello comunale, dove i sindaci sono comunque nel nostro ordinamento l'autorità di sanità pubblica, quindi hanno la possibilità di poter intervenire anche sul loro territorio, sulla loro popolazione. Qui siamo in presenza di misure di contenimento abbastanza leggere prese dal governo centrale, con misure che però possono essere inasprite dal livello regionale e poi misure molto molto precise, molto dettagliate che devono essere prese a livello comunale. Ora, io credo che questo sia un ordinamento molto efficace e molto appropriato nel momento in cui l'informazione gira e la concertazione possa essere intrapresa. Non mi scandalizzo nel vedere le misure prese dal governatore della Campania De Luca. Credo che sia una misura molto estrema, se vogliamo, che però definisce un livello di attenzione molto particolare con un'azione di contenimento appropriata per il territorio che viene amministrato. Mi aspetto che ci siano altre cose, soprattutto per quanto riguarda i trasporti e in qualche modo la possibilità di fasare l'indice di affollamento del trasporto pubblico, soprattutto quello urbano. Questo è un elemento di grande preoccupazione. Abbiamo visto intasate le metropolitane, gli autobus, eccetera, dove è estremamente difficile nelle ore di punta mantenere il distanziamento, mantenere i livelli minimi di accortezza che stiamo raccomandando. Quindi lì probabilmente qualche cosa può essere fatto di più, per esempio diluendo gli orari di entrata e di uscita sia delle scuole che degli uffici. Anche oltre ai trasporti, anche i focolai intrafamiliari sono importanti, sono circa il 70%. Sì, quelli contano, come ha detto giustamente il Ministro Speranza, in questo momento c'è una concentrazione a livello familiare, perché è un po' dove si abbassa la guardia, gli amici, i parenti, non si pensa che possano essere veicoli di contagio. Non dimentichiamoci anche che i ragazzi tornano a casa. E certo. Quindi c'è, anche se le scuole sono messe in sicurezza, poi per andare a scuola e per tornare da scuola il percorso potrebbe essere anche lungo e anche difficile. Quindi questi sono elementi di assoluta accortezza che devono essere ricordati. Poi sa, limitare le riunioni a 6, a 5, a 3 o eliminarle proprio del tutto, questo credo che sia un problema di disciplina individuale. Quindi al di là di una raccomandazione molto forte, certamente il governo non può andare. Dottor Ranieri Guerra, coprifuoco e lockdown localizzati, pensa che aumenti il rischio anche in Italia, nel nostro paese? Se la curva continua a crescere, come mi aspetto, nei prossimi 10-15 giorni, in attesa di vedere gli effetti di questi primi provvedimenti, potrebbe essere il caso. Ma è quello che le dicevo. Credo che l'autorità sanitaria cittadina, quindi il sindaco, e l'autorità amministrativa regionale possano e debbano verificare l'opportunità di questa misura nel proprio territorio. Non credo che sia il momento di agire a livello nazionale. Dottor Ranieri Guerra, un dato che la preoccupa, un dato che la rende cautamente ottimista? Quello che mi preoccupa è l'aumento dell'indice di replicazione del virus. Siamo intorno a 2 a Milano, nelle zone metropolitane più estese, dove il virus galoppa, e quindi dobbiamo renderci conto che ogni persona infetta in questo momento a Milano ne contagia 2, ne può contagiare 2 in assenza di provvedimenti di contenimento. Quindi questo è un elemento che ovviamente in prospettiva deve preoccuparci molto, perché dobbiamo mantenere ad ogni costo questo indice di replicazione inferiore all'1, che vuol dire che la curva si può progressivamente diminuire e essere riportata sotto controllo. Mi preoccupa anche l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, perché questo è un po' l'indice di gravità della patologia, ma è inevitabile, man mano che aumenta la dimensione delle persone contagiate, sappiamo che è una questione puramente matematica, aumenta anche il numero dei pazienti gravi che possono e devono essere ricoverati. Quello che mi induce ad un cauto ottimismo è la capacità del sistema di mantenere il tracciamento, quindi di identificare le positività, di identificare i contatti stretti, di metterli in isolamento molto tempestivo e di ricorrere all'ospedalizzazione che gestita, quindi evitando l'intasamento, evitando che ci sia l'assalto agli ospedali. Mi preoccupa molto il fatto che tra 10-15 giorni cominceremo a vedere anche influenza stagionale, quindi esatto, casistica possibilmente e potenzialmente seria, che andrà all'assalto della struttura ospedaliera del pronto soccorso. Quindi credo che quello sia il punto nevralgico dove intervenire ora. Dottor Ranieri Guerra, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, spero di risentirla presto con buone notizie. Grazie a lei, arrivederci, a presto. Bene, ma voi restate con me, perché siamo arrivati alla terza settimana del nostro allenamento per affrontare con lo spirito giusto questa nuova quotidianità. Tra poco ci raggiungono la professoressa Gwendalina Graffigna e Andrea Vitali. Voi state lì e io torno subito. Obiettivo Salute Weekend. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a ballare, allora dai, alleniamoci insieme e torna il nostro appuntamento con il nostro progetto. Partecipate anche voi, c'è la nostra pagina Facebook del programma a vostra disposizione, e in linea con noi ci sono la professoressa Gwendalina Graffigna. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La nostra prof, ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano e direttore di Engage Minds Hub, e il nostro ispiratore Andrea Vitali. Eccoci, buongiorno. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace Sì, ve lo dico con la musica, perché dopo le parole, dopo le immagini, questa settimana lavoriamo proprio sulla musica. Perché, professoressa Graffigna, le note possono aiutarci, soprattutto in questo momento complicato? Perché i suoni, le note, in fondo ci sono sempre come appunto accompagnamento ai nostri stati d'animo, e non solo, tante volte sono proprio le note a determinare i nostri stati d'animo. La ricerca in psicologia dimostra tantissime funzioni della musica, sia per accompagnamento quotidiano, ma anche come valore di legame sociale, o anche come valore proprio di stimolo per darci la motivazione e l'energia, per esempio quando si fa sport, o addirittura un effetto di trascendenza, cioè quel senso di assorbimento e di farci viaggiare con la mente lontano. Quindi più che mai riuscire a concentrare la nostra attenzione sulla musica e riuscire a regolare come l'emozione possa avere un impatto sui nostri stati d'animo è una funzione che possiamo allenare anche in questa quotidianità. Andrea, naturalmente non dobbiamo dimenticare gli esercizi delle settimane precedenti. Abbiamo lavorato sulla parola, abbiamo lavorato sulle immagini, sono arrivate delle immagini bellissime. Adesso lavoreremo sulla musica. Sarà più facile secondo te, Andrea? La musica, ma lì bisogna fare secondo me dei distinguo, perché pensiamo ad esempio a certe sinfonie di Mahler, e non possiamo affermare che la musica sia così immediata ascoltando per la prima volta una sinfonia di Mahler, così come non è immediato ad esempio leggere per la prima volta l'Ulisse di Joyce. Quindi all'interno del campo della musica c'è una serie di gradazioni. All'estremo opposto, ci mettiamo una delle canzoncine più note dello Zecchino d'Oro, che non so, i 44 Gagliardi, e la lettura di un fumetto, mettiamoci Topolino uno per tutti. Quindi tra questi due estremi c'è tutta una setta, proprio di una scala di gradazioni che comporta una pari scala di difficoltà nell'entrare, nel contesto. D'altronde, e chiudo, i grandi musicisti, i grandi cantautori hanno proprio utilizzato le note per comunicare i loro stati d'animo. E se noi riusciamo a coglierli, noi che non siamo musicisti né cantautori, li esprimiamo poi con delle parole, quindi c'è un connubio tra parola e nota che è assolutamente un bel matrimonio, ecco, inscindibile. La musica arriva però, mi sembra, in modo più immediato, mentre il testo richiede un pochino di lavoro in più. Cioè la musica arriva, pum, e ti inonda. La parola devi leggerla, devi legarla, devi capire il testo, raccogliere il messaggio. Assolutamente sì, sono due cose che entrano approfittando di due canali, di due sentieri diversi, però io sono convinto che a un certo punto questi due binari che sembrano paralleli a un certo punto si uniscano e diventino un binario unico, perché fanno parte di un universo del sentire del nostro animo che è un corpo unico, la musica, la parola, certo, l'immagine, l'immaginario, eccetera. Professoressa Graffigna, parole, immagini, musica. Ogni settimana lei ci ha suggerito un elemento su cui lavorare. Naturalmente non possiamo perdere quelli delle scorse settimane. Trasferendo quindi tutti questi esercizi, abbiamo fatto un po' come in palestra, abbiamo allenato le gambe, abbiamo allenato le braccia, stiamo lavorando sugli addominali. Come possiamo legarli insieme? Perché stiamo allenando la nostra consapevolezza su delle funzioni psicologiche che spesso diamo per scontato. Siamo partiti dalla parola perché il linguaggio è parte della nostra quotidianità, del nostro essere umani. Parliamo, raccontiamo storie sempre, spontaneamente, senza rendercene conto, e quindi ci sembrava un po' il primo esercizio, quello più facile di riscaldamento, anche se abbiamo ragionato un po' di più sulla funzione del linguaggio. Le immagini, ovviamente la nostra mente lavora per immagini, i nostri ricordi lavorano per immagini, ma ci siamo allenati a trovare delle immagini un po' particolari, o trovare anche il bello nelle immagini più quotidiane. E adesso la musica, come giustamente diceva Andrea Vitali, ci sono delle diverse capacità di sintonizzarsi con la musica, dipende anche dalla nostra personalità, dipende anche dalla nostra capacità anche di elaborare le nostre emozioni. Però a maggior ragione possiamo allenarci, e quindi ponendo un pochino più di attenzione su quello che è la nostra reazione emotiva e il significato significato che noi diamo ai suoni, quindi può essere la musica, ma può essere anche un suono di sottofondo, ecco che alleniamo un'altra nostra area di consapevolezza. Ecco perché questa settimana ci poniamo attenzione sui suoni. Il compito di questa settimana e poi l'aiuto di Andrea Vitali. Diteci qual è la musica, il suono, la canzone, il ritornello che alla mattina vi piace o vi piacerebbe sentire per partire, quindi per energizzarvi. E anche diteci invece all'opposto qual è la musica, la canzone, il ritornello che vi piace sentire alla sera, quando dovete invece rilassarvi. Ecco, quello che ci toglie quegli zaini pesanti che ci portiamo a casa alla sera quando arriviamo. Andrea. Io al mattino partirei con Vivere senza malinconia, però non nella versione più vecchia, in quella un po' sguaiata che ha cantato magnificamente Iannacci insieme a alcuni dei suoi... Grande, grandissimo! Vivere senza malinconia. Mi piace di più La valigia dell'attore di De Gregori, perché è meditativa, è proprio una canzone crepuscolare, è un capolavoro, è forse la più bella canzone di De Gregori, e quindi come dire, favorisce la meditazione su quello che hai fatto durante la giornata. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio. Se fate i compiti, ecco, riceverete a casa il potere della gratitudine, che adesso è comunque in libreria, il libro scritto a mille mani, mi piace definirlo così, che ci racconta quanto la gratitudine possa davvero aiutarci, soprattutto sempre, ma anche nei momenti in cui la strada sembra in salita. Professoressa Graffigna, salutiamoci con un'esortazione a fare i compiti, a non mollare, e poi passo al grande Andrea. Assolutamente, perché è proprio, come dicevo l'altra volta, il provarci che è un'esperienza nuova, secondo me, per molti, no? Mettersi in gioco, provare, uno dice sì, ma figurati cosa sarà mai una canzonetta o un messaggio. Beh, in realtà è un inizio di un ingranaggio, un inizio di anche drammatizzare un po', guardarci con un occhio diverso, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Andrea, tu hai visto che belle immagini sono arrivate sulla nostra pagina Facebook? Assolutamente sì, assolutamente sì, molto belle. Foto di tramonte, mare, poi c'era anche un cane, quella del cane mi è piaciuta molto. Senti Andrea, questa settimana sarà una settimana più, aggiungi tu la parola. Sarà, secondo me, una settimana più ricca di sorprese. Perché? Perché la musica ti porta a cantare. Io vorrei sapere quanti di noi, almeno una volta nella vita, sapendo di non essere osservati, davanti allo specchio hanno finto di suonare una chitarra, una batteria, addirittura di cantare la loro canzone preferita, e capendo di stare vivendo un momento perfetto. Per cui vorrei avere tante immagini di gente che canta da sola davanti allo specchio. Bello, questo mi piace, canta che ti passa. Professoressa Graffigna, è un modo di dire, però io credo che ci sarà sicuramente qualche ricerca che è andata a indagare i benefici che arrivano dal farsi una bella cantata. Ma no, non solo, c'è addirittura proprio un'area della psicologia generale, che studia gli effetti della musica e soprattutto gli effetti in termini di psicologia positiva. E quindi assolutamente sì, adesso qua stiamo un po' banalizzando, ma ci sono degli studi scientifici che dimostrano come il ritmo, la tonalità abbia un impatto anche proprio inconsapevole sul nostro cervello, sui nostri organi, anche proprio in termini di arousal, cioè di attivazione emotiva profonda, e tutto questo può avere degli effetti anche molto benefici sulle persone. Allora, parole, immagini, musica, canto, tutto insieme, sono tutti ingredienti che ci possono aiutare, naturalmente non da soli, ad affrontare queste giornate. E poi ci siamo noi, sempre a vostra disposizione, Obiettivo Salute, @radio24.it. Un abbraccio grande ad Andrea Vitali e anche alla professoressa Graffinia. Grazie. Grazie. A presto. Bene, allora vi rimando alla pagina Facebook di Obiettivo Salute, dove nel corso della settimana potete anche ascoltare i consigli di Andrea Vitali, che è un po' il nostro motivatore e dalla nostra parte ci sostiene. Intanto vi do appuntamento a domani alle 12, bufale in tavola, mangiamo insieme. Carmelo Lauricella in regia la parte tecnica, lo ringrazio, e naturalmente un grazie a Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, buona giornata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.